Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e dieci minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria molto vari, anche per alcuni versi molto spuri. Oggi ci sono delle dichiarazioni del presidente dell'INPS Boeri, le ascolteremo. Ci sono state le audizioni dei sindacati della Confindustria sul DEF, sul documento economico finanziario, anche queste ascolteremo in alcuni passaggi. Poi c'è la vicenda borse, non perché oggi le borse, a differenza di venerdì, siano particolarmente agitate, anzi più 1% Milano, più 0,70 Parigi, più 1,60 Francoforte, più 0,70 Londra e più 1,40 il Dow Jones. L'euro a quota 1,07, la Grecia è ancora tra coloro che sono sospesi. Poi varie indiscrezioni di stampa citano il fatto, per esempio, che gli operatori della City di Londra sarebbero già pronti a trasferire e a fare il cambio, diciamo, euro-dracma, ma in realtà il tema è molto diverso, è l'effetto domino e speculativo che questo innescherebbe. Le parole di Mario Draghi nel fine settimana sono state molto esplicite su questo, ha detto insomma la situazione è molto diversa rispetto al 2011, 2012, 2010, 2011 e 2012, però attenzione, l'uscita della Grecia dall'euro, l'incancrenirsi della situazione greca avrebbe conseguenze anche difficili da reggere, per cui è stato anche, pur riconoscendo una situazione completamente diversa rispetto a tre anni fa, è stato anche molto attento nel sottolineare i rischi. Anche di questo parleremo. Poi un trattato di cui si parla, ma come se fosse solo una cosa così molto tecnica, e che oggi si riapre, nel senso che il nono round dei negoziati tra Unione Europea e Stati Uniti sull'accordo di libero scambio, che noi chiamiamo TTIP, o sarebbe meglio chiamare TTIP, perché è Transatlantic Trade and Investment Partnership. I negoziatori saranno impegnati fino al 24 aprile, non ci si aspetta una svolta, ma un passo in avanti verso un accordo sì. L'obiettivo qual è? È arrivare a un interscambio commerciale di commercio e investimenti nell'ottica di una riduzione delle barriere tra i due continenti e dovrebbe arrivare ad aprire una zona di libero scambio tra Stati Uniti ed Europa, oltre che ad armonizzare e semplificare le normative tra le due aree. I contenuti delle trattative sono in parte segreti. Tra l'altro, questo secondo uno studio dell'Aspen permetterebbe un aumento del commercio europeo verso gli Stati Uniti del 28%. Il fatto che siano in parte secretati questi contenuti ha attirato anche le critiche di una scarsa trasparenza e timori che le normative siano a favore delle aziende piuttosto che dei consumatori. Però faccio notare che per quello che riguarda l'Italia il tema è ancora più delicato, perché si cerca di tutelare i nostri prodotti a partire dall'agroalimentare, ma non solo, le nostre DOP o IGP, per cui che in America non vogliono far passare l'idea che tu possa chiamare prosciutto di Parma, il famoso Italian sounding, e la tutela solo quello che è fatto a Parma e macellato a Parma, e la stessa cosa per il grana padano. C'hanno il timore di danneggiare poi l'industria alimentare americana, che con l'Italian sounding fa i miliardi, visto che noi esportiamo 30 miliardi di euro, non solo negli Stati Uniti, complessivamente, di agroalimentare, ma il valore dell'Italian sounding è doppio, 60 miliardi ogni anno di cibo che viene spacciato per italiano. Non è contraffatto, non è un atto in cui viene contraffatto il marchio, semplicemente, ne abbiamo parlato molte volte, il parmigiano reggino scritto con una G e via, il salami e tutto quello con la bandiera italiana sopra, poi prodotti in Canada o prodotti negli Stati Uniti. Ecco perché noi riguarda particolarmente, visto che stiamo puntando sempre più anche sulla qualità, la denominazione del cibo italiano. E poi siamo a ridosso dell'Expo. Comunque, per quello che riguarda il numero per intervenire, è sempre il solito 349-238-6666 e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. anche un commento su quanto sta accadendo, sulla tragedia umana. Allora è chiaro che non è, mi riferisco a quanto sta accadendo con i barconi degli immigrati. Allora è chiaro che insomma, non è oggetto di questo programma. Una cosa però si può dire, visto che l'Europa c'è quando, o meglio, l'Europa chiede un'unità quando si tratta di sanzioni all'Ucraina, che poi vanno a colpire anche e soprattutto le aziende italiane. Chiedono unità quando c'è da avere un atteggiamento unico nei confronti della Grecia. Ecco, se veramente l'Europa non vuole indebolire ulteriormente la sua ragione di essere, che già mi sembra messa male per la gestione a trazione tedesca di questa Europa di carattere economico-finanziario, beh, forse iniziare a smetterla di trattare i paesi con diversi pesi sarebbe la strada maestra, anche perché insomma, da questo punto di vista non si può chiedere all'Italia di essere in Europa solo quando fa comodo che l'Italia appoggi la linea europea. Ripeto, vedi il caso Ucraina, vedi il caso Grecia, vedi poi tutto il patto di stabilità, e dimenticarsi che esiste un'unica frontiera, che è la frontiera europea, se vogliamo ancora ragionare come una casa europea, che è una casa che scricchiola sempre di più perché alcuni dei componenti invece la usano solo come un albergo quando fa comodo a loro, e poi per il resto si fanno i loro benamati interessi. E restiamo sulle notizie in breve. Per quello che riguarda la borsa, dicevo, più 1% i titoli, più 4,5% Buzzi Unicem, più 4,20% Pop Milano, più 3,40% Unicredit, più 2,5% UbiBanca, più 2,1 Intesa, più 2 A2A, l'1,70 lo guadagna Azimut, ma anche Enel Green Power, l'1,5 Luxottica, l'1,30 ST Microelectronics, l'1,1 è rialzo del Banco Popolare, l'1% quello del Monte dei Paschi, perde CNH invece l'1,80, Campari l'1,5, Toz lo 0,90, Mediolanum 0,5% di calo. Allora, la Grecia, mentre Mario Draghi ha chiesto un'azione risoluta delle riforme in Italia e in Francia, per quello che riguarda la Grecia, oggi la notizia più importante, quantomeno perché dà l'idea di quanto drammatica e fragile sia la situazione in Grecia, secondo quanto riferiscono alcune agenzie, il governo greco avrebbe obbligato le amministrazioni degli enti locali a trasferire alla banca centrale tutte le disponibilità di contante, un po' come se il governo italiano avesse obbligato province o ciò che ne resta, comuni e regioni, a trasferire il contante alla banca centrale perché temono l'assenza di liquidità. Voi capite che se fosse successa una cosa del genere in Italia saremmo già alla corsa agli sportelli. Comunque, il Brussels Group, quello che ha preso il posto della Troica, continuerà il suo lavoro sia oggi che domani. La commissione lavora 24 ore su 24, ha fatto sapere il portavoce, per facilitare un accordo. Ricordo l'appuntamento, anche se non arriverà, da quello che abbiamo capito, nulla di risolutivo, il 24 aprile a Riga, nel vertice informale dell'Eurogruppo dei paesi che aderiscono all'euro. Alcune altre fonti dicono che l'intensificarsi delle discussioni è già qualcosa che va nella giusta direzione. Poi un esponente della Banca Centrale Europea, mi riferisco a Christian Noyer, in un'intervista alle Figaro, dice: l'uscita della Grecia dalla moneta unica sarebbe un trauma per l'area euro, con gravi contraccolpi per l'economia mondiale. Nel frattempo i rendimenti sui titoli greci in scadenza 2017 hanno superato il 28%, ora è chiaramente un rendimento così simbolico, è un nuovo picco, e il titolo BTP greco a 10 anni paga il 13,3% di rendimento. Faccio notare che si è sempre detto che sopra il 7% di rendimento di un titolo di Stato, che il 7% inizia a essere discrimine tra un debito che uno Stato può ragionevolmente pagare e un debito che uno Stato non è in grado di pagare. Ora qui siamo al 13,3%, prendiamone atto, ecco. Andiamo all'Italia. Oggi, dicevo, audizione di Confindustria e sindacati sul DEF, sul documento economico finanziario. Il direttore generale di Confindustria, Marcello Panucci, ha detto: anche in Italia, dopo una crisi dagli effetti devastanti, si sta riaffacciando la ripresa, c'è una grossa opportunità, c'è un contesto esterno straordinariamente favorevole, però questa non può essere un'occasione per rilassarsi. Rimane la necessità di reperire per l'anno prossimo le risorse necessarie a disinnescare compiutamente le clausole di salvaguardia. Riteniamo condivisibile la scelta di agire con dei tagli di spesa, ma su questo punto ci teniamo a sottolineare che la spending review deve essere fatta in maniera chirurgica e selettiva. Ricordo che a partire da negli ultimi anni le revisioni, i processi di revisione della spesa pubblica sono state composti prevalentemente da tagli lineari. Questi hanno avuto degli effetti recessivi sull'economia, soprattutto sulle imprese private. Quindi è necessario che la spesa pubblica venga meglio indirizzata e che sia un'occasione per razionalizzare davvero la pubblica amministrazione e aumentarne la produttività. Anche se in ritardo rispetto agli altri paesi, anche in Italia comincia a riaffacciarsi la ripresa. Dopo 5 trimestri consecutivi in cui non si era registrato alcun aumento, nel primo trimestre 2015 ci sarà un segno più di nuovo, che il nostro centro studi stima in un più 0,2%. Non è un avvio sfolgorante, però è una ripartenza che si rileva in diversi indicatori sia qualitativi che quantitativi. Aumenta la fiducia dei consumatori e delle imprese in tutti i settori, nel manifatturiero per il 7° mese consecutivo, nei servizi di mercato da 4 mesi, anche nelle costruzioni dove il recupero è iniziato circa 3 mesi fa. Il fatturato e gli ordinativi dell'industria sono in crescita grazie non solo alla domanda estera ma anche finalmente a quella interna. Le esportazioni sono in aumento dentro e fuori l'area euro, l'occupazione ha offerto qualche indicazione positiva già nel corso del 2014. Abbiamo quindi di fronte a noi una grande opportunità che ci viene soprattutto dalle straordinarie condizioni esterne al nostro paese. L'euro meno forte, i tassi di interesse estremamente ridotti grazie all'azione della Banca Centrale Europea, il prezzo del petrolio dimezzato, la maggior crescita mondiale trainata soprattutto dagli USA. Ci sono delle opportunità soprattutto derivanti dal contesto esogeno che però noi non possiamo permetterci di sprecare, quindi non possiamo rilassarci, dobbiamo spingere su misure di stimolo all'economia che rilancino la crescita. Prime fra tutte le riforme strutturali. Quindi sì, ci sono condizioni esterne particolarmente favorevoli, i segnali di ripresa non mancano, però avete sentito nelle parole del direttore generale della Confindustria Marcello Panucci il tema della spending review. Molto modestamente ci siamo permessi di avanzare questa critica anche noi nei giorni scorsi, cioè Cottarelli ha fatto un lavoro molto dettagliato, poi tutto è stato messo in un cassetto, poi adesso c'è chi ha preso il posto di Cottarelli, Gutleg, però nel frattempo la sensazione è che ancora si proceda con i tagli lineari che hanno un carattere recessivo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se tu tagli il welfare e dici a tutti meno 5, poniamo, è chiaro che questo comporta anche una spesa più alta per i cittadini laddove il welfare non riesce ad arrivare, e comporta comunque anche un meno consumo. Altra cosa per esempio è tagliare la spesa per i beni intermedi, quindi gli acquisti, quindi i 30.000 centri appaltanti, perché la fotocopiatrice, la sacca di plasma, la siringa pagata 5 volte il prezzo da una regione all'altra, beh, quello non ha un effetto recessivo, lì è solo qualcuno che ci sta mangiando e difficilmente le tangenti contribuiscono all'economia, che ne creda qualcuno, le tangenti contribuiscono solo a chi le becca, perché poi li deposita su conti all'estero. Allora, quello è un punto. Andate a tagliare laddove la spesa è improduttiva, perché se no hai un elemento recessivo, risparmi qualcosa sulla spesa pubblica ma l'economia continua a non ripartire. Molto più duro ovviamente il giudizio di Danilo Barbi, segretario confederale della CGIL, sempre in audizione al Senato. L'unico effetto di questo governo, della politica economica di questo governo, è l'aumento delle disuguaglianze, le stime sono irrealistiche, ci stiamo arrendendo a una disoccupazione giovanile oltre il 40%. Il giudizio generale che la CGIL dà sul documento di economia e finanza è un giudizio critico. Infatti il DEF, in qualche modo, a nostro modo di vedere, impegna una politica economica sostanzialmente in continuità con quella dei precedenti governi. Il governo, nella sostanza, scommette su una ripresa dando per scontato che non sia in grado di creare nuova occupazione in modo significativo. Questo ci sembra essere il punto sostanziale. Si rassegna quindi a un'alta disoccupazione e programma una svalutazione competitiva del lavoro attraverso la programmazione di un aumento dei salari di gran lunga sotto l'ipotesi di produttività. Ci si arrende quindi a tassi di disoccupazione strutturalmente al di sopra del 10%, che col tasso di sostituzione della legge Fornero vuol dire un tasso di disoccupazione giovanile intorno al 40%. Questa è, diciamo, le ipotesi dello stesso governo. Nelle ipotesi, diciamo, più ottimistiche di crescita che il governo presuppone, questa politica produrrà un ulteriore aumento delle disuguaglianze interne, sia in termini sociali che generazionali, fra imprese, fra aree del paese. La CISL invece, per voce del segretario confederale Maurizio Petriccioli, diceva: attenzione, occorre estendere il bonus di 80 euro per colmare il vuoto di domanda. Non emerge invece su questo alcuna indicazione dal documento economico finanziario, quindi chiede l'estensione della platea di chi ha diritto al bonus fiscale per sostenere la domanda interna. Notiamo anche noi una timidezza nella indicazione concreta di come si aggredisce la domanda interna, quindi di come si interviene sui consumi e sugli investimenti pubblici, anzi su questi ultimi c'è una regressione che continua anche nel DEF ed è prevista. La crescita non può certo venire solamente dal rallentamento del processo di risanamento dei conti pubblici, perché così si rischia di fare un DEF che va benissimo a livello europeo, ma che va meno bene alle persone e alle imprese che abitano e producono in questo paese. Ci vorrebbe invece, visto che la politica europea, anche in termini di riferimento alla crescita potenziale, prevede una disoccupazione al 10%, ci vorrebbe una capacità di mettere in campo una politica più aggressiva. Riteniamo positivo il fatto che il DEF abbia provveduto a scongiurare l'attivazione delle clausole di salvaguardia previste sulle accise della benzina e sull'IVA. È evidente che ci sarebbe stato un impatto deprimente da questo punto di vista sulla domanda interna. E ancora l'ultimo intervento che vi facciamo ascoltare è quello della UIL. Anche il segretario Guglielmo Loi sottolinea l'attenzione che va messa sulla spending review e il rischio di un aumento delle tasse locali. Nel 2015 già cresceranno per 5 milioni di contribuenti con l'aumento del prelievo IRPEF regionale. In media il rincaro medio sarà delle addizionali a 389 euro contro i 362 euro del 2013. La prima questione è quella dei tagli e dei risparmi, come vengono chiamati, devono far sì che si eviti quello che già in qualche modo è in corso quest'anno, ma anche negli anni passati è avvenuto, cioè dell'aumento di una tassazione non statale più locale. Già quest'anno, a invarianza di manovre, ci sarà un aumento delle addizionali regionali, c'è il rischio che questo avvenga anche per quelle comunali, con un ulteriore peso fiscale soprattutto per i contribuenti che pagano tutta l'IRPEF sostanzialmente. Su questo anche l'intervento ipotizzato sul riordino della tassazione locale va apprezzato per la semplificazione e per evitare questo continuo balletto di, come dire, scarico e carico tra i vari livelli istituzionali sull'utilizzo, diciamo, dello strumento della fiscalità locale in senso generale. Se nell'ipotesi local tax verrà esclusa l'IRPEF, è bene che si sappia che questa deve essere in qualche modo verificata con attenzione. Noi siamo favorevoli che, come dici, superi questo strumento un po' anomalo e atipico, però è bene ricordare che oggi ci sono realtà in cui l'addizionale è alta, altre in cui è bassa, e quindi c'è il rischio che alcuni contribuenti si ritroverebbero, come dire, a un aumento della tassazione se non vengono posti alcuni paletti. altre vicende di carattere invece italiano, un'agenzia appena battuta che riguarda la vicenda Whirlpool, il ministro Guidi ha convocato il tavolo, preso atto della rottura delle trattative tra aziende e sindacati, ha convocato il tavolo sulla vertenza Whirlpool per lunedì 27 aprile alle 16. Infatti oggi è di oggi la notizia che FIM, Wilm e UGL hanno abbandonato il tavolo della trattativa sul piano Whirlpool e avevano chiesto oggi un'immediata convocazione del governo, che è arrivata pochi istanti fa. I tre sindacati dicono no alla chiusura degli stabilimenti e ai licenziamenti, e decise 12 ore di sciopero. Le domande di disoccupazione arrivate all'INPS a febbraio, nel mese di febbraio, secondo quanto ha diffuso oggi come dato l'istituto INPS, sono arrivate 119.519 domande. Il calo è del 17% rispetto alle domande di disoccupazione arrivate a febbraio del 2014. Quando parliamo di disoccupazione bisogna usare le pinze, l'abbiamo spiegato molte volte, c'è stato anche un appello del Sole 24 Ore a cui poi il ministro Poletti ha risposto per avere la fine dell'embargo sui dati su occupati e disoccupati. Comunque questo è il dato INPS sulle domande, a gennaio erano 200.000, ma soprattutto sono calate del 17% rispetto a un anno prima. L'INPS ha autorizzato anche molte meno ore di cassa integrazione, meno 43,8% rispetto al marzo del 2014. C'è stato anche il crollo della cassa integrazione in deroga a causa però della carenza degli stanziamenti, meno 91%. E poi il presidente dell'INPS, Tito Boeri, oggi intervenuto in un convegno, ha detto: beh, a giugno presenteremo una proposta per introdurre il reddito minimo garantito per le persone tra i 55 e i 65 anni, perché sono persone che difficilmente trovano un nuovo impiego, solo il 10%. E non c'è che, e non credo, ha detto Boeri, che anche un trasferimento, un reddito minimo possa creare il rischio che queste persone poi non si mettano a cercare comunque un lavoro. Abbiamo deciso di concentrare l'attenzione per le misure assistenziali su quella fascia di età, 55-65 anni di età. Noi abbiamo avuto questa forte crescita della povertà in Italia in questa fascia di età, ma è anche una ragione il fatto che ci concentriamo su questa fascia di età legata a quanto dicevo prima, c'è un problema di risorse, chiaramente il finanziamento di un reddito minimo garantito per tutta la popolazione italiana costerebbe molto di più delle risorse su cui noi stiamo ragionando, e poi c'è anche un problema di natura amministrativa. Io ritengo che in Italia oggi un reddito minimo garantito, uno strumento di sostegno al reddito per le persone che hanno tra 55 e 65 anni d'età, non richiederebbe un'infrastruttura nuova e particolarmente impegnativa rispetto a quelle oggi esistenti. E poi Boeri, a mio avviso correttamente, mette anche l'accento sulla disoccupazione dei 55 e 65 anni. Noi chiaramente ci occupiamo sempre della disoccupazione giovanile, perché è il dato che l'Istat scorpora ed è quella, diciamo, che dà anche il segno, la cifra delle difficoltà, del futuro che un paese è in grado di disegnare per se stesso, se mi permettete questa retorica che non appartiene a questo programma. Però è verissimo che c'è un dramma ulteriore che vivono i 55 anni, intanto perché hanno dei carichi familiari, dico 55 anni in su, carichi familiari pesanti, e quindi a differenza di un 25enne, insomma, tendenzialmente hai più costi nella vita quotidiana. E poi perché mentre un 25enne, 30enne può sperare che le cose cambino e può dire vabbè, vediamo se questo paese si dà una raddrizzata, il 55enne questa speranza la deve coltivare per un periodo di tempo molto molto breve, cioè che cambino subito. Su questo Boeri dice: attenzione, l'allarme povertà, c'è una nuova emergenza che si somma ed è quella dei 55-65 anni, dopodiché noi abbiamo diritto come INPS di proporre, non andiamo a violare la democrazia, entro giugno presenteremo un pacchetto complessivo di misure, di proposte al governo. rivendico il diritto di poter fare delle proposte, non è certamente un modo di violare le regole della democrazia come qualcuno ha sostenuto nel nostro paese, assolutamente sono delle proposte che verranno fatte al governo e poi al Parlamento italiano. Vogliamo fare una proposta organica che quindi copra i diversi aspetti e che si muova sull'asse assistenza previdenza, perché come dicevo prima il problema centrale oggi è la povertà e quindi noi dobbiamo partire dal nodo dell'assistenza, vedere come possiamo migliorare alcune proprietà del nostro sistema previdenziale per permettere interventi più incisivi sull'assistenza e rendere più equo anche al tempo stesso il nostro sistema previdenziale. Vogliamo che la proposta sia completa, nel senso di una proposta che è in grado di autofinanziarsi, cioè non deve andare a chiedere al governo di trovare altre fonti di finanziamento, deve essere in grado di reggersi sulle sue gambe, nel senso anche dell'infrastruttura. Adesso c'è il meteo, la pubblicità, poi ancora altre notizie, la borsa chiaramente e altri temi, per esempio il mondo dell'autotrasporto, ci arrivano segnalazioni anche sulla difficoltà, adesso non voglio tornare sempre sull'ANAS, ma c'è una regione italiana, la Sicilia, che grazie ai viadotti dell'ANAS è praticamente spaccata in due, e poi arriveremo al nono round che si apre oggi degli incontri per il libero scambio tra Stati Uniti e Unione Europea. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Focus Economia. Allora, iniziamo adesso con la borsa che ha appena chiuso. C'era molta attesa oggi per capire come sarebbe iniziata la settimana dopo le tensioni di venerdì dovute appunto all'incancrenirsi della situazione greca. Lo spread è rimasto alto oggi, alto rispetto ai livelli degli ultimi mesi, nel senso non nulla a che vedere con lo spread veramente alto, però visto che ci eravamo abituati a 108, 109, 110 è rimasto a 137, che ripeto non è preoccupante, ma segnala che non si vuole abbassare la guardia su questo. Abbiamo già detto dei rendimenti greci schizzati a livelli altissimi, a un nuovo picco, se vogliamo dire anche in questo modo, perché ormai siamo al 26% sui titoli greci in scadenza 2017 e paga, e questo è veramente preoccupante, paga meno o rende meno investire in debito greco a 10 anni, il 13,3%, che in debito greco nei prossimi tre anni, perché questa si chiama inversione della curva, capitò anche a noi nel periodo peggiore dello spread, quando lo spread era sopra i 500 punti, perché di solito devi dare più soldi a chi ti ripresta per 10 anni come tasso di interesse che non a chi ti ripresta per 2 anni, perché il ragionamento è che il rischio è maggiore, chissà dove sarai fra 10 anni, ma quando la situazione è veramente critica e a un passo dal baratro nessuno scommette più sui 10 anni, ma chiede tanti soldi per prestarti, chiede tanti interessi per prestarti dei soldi anche a 2 anni, perché non sa neanche se sarà in vita fra 2 anni. E si chiama inversione della curva, cioè l'interesse è più alto nel breve che nel lungo, ma non perché sia una buona cosa, perché nel lungo uno neanche ci vuole pensare. Quello che sta capitando in Grecia, i titoli con scadenza 2017 hanno superato, segnando un nuovo picco, appunto il 26% di rendimento. Da noi comunque la situazione è andata bene, più 1,25% oggi Milano, più 0,86 Parigi, più 1,74 Francoforte, più 0,70 Londra, più 1,36 il Dow Jones. Ancora per quello che riguarda i titoli ci sono anche casi, vicende relative alla singola settore o alla singola azienda. Penso in primo luogo a Buzzi Unicem, più 4,63%. Allora colleghiamoci subito con Radio Cori sulle 24 ore, Guido Maurino, buonasera. Buonasera. Buzzi Unicem da un lato e poi il mondo delle banche popolari, che ha visto la Pop Milano crescere del 4,5% e Unicredit il 3,60%, Ubibanca il 2,90%, Intesa San Paolo più 2,50%. il Banco Popolare 1,5%, Monte dei Paschi più 1,40%. Buzzi Unicem è il mondo delle popolari. Sì, allora per quello che riguarda Buzzi Unicem sono le prospettive a premiare il titolo oggi a Piazza Affari. Gli analisti hanno fatto alcuni calcoli comparando Buzzi Unicem con gli altri competitor nel settore dei cementieri. Il risultato è che Buzzi Unicem è ancora a sconto rispetto alle quotazioni di altri titoli comparabili e soprattutto ha anche una buona esposizione sugli Stati Uniti, che è un mercato ancora in crescita, e sulla base di queste prospettive il titolo è stato premiato oggi. Per quello che riguarda invece le banche popolari è sempre il risico a tenere banco. Oggi in particolare si è mosso bene la BPM, la Banca Popolare di Milano, che è candidata, stando alle indiscrezioni, a unirsi al Banco Popolare. Le due banche hanno una capitalizzazione simile, il Banco Popolare 5 miliardi e la Banca Popolare di Milano circa 4 miliardi, ma secondo alcuni osservatori verrebbe pagato, diciamo, un premio alla Banca Popolare di Milano perché la qualità dei suoi attivi in caso di fusione è migliore rispetto a quello del Banco Popolare, e questo spiega il diverso andamento dei due titoli, tutti e due in crescita ma con variazioni molto diverse, circa 1,5 punti per il Banco Popolare e oltre 4,5 per la Popolare di Milano. E questo continuerà, e lo dico finché non avremo notizie definitive, il risico, le speculazioni sul mondo delle popolari. Invece, tra l'altro, nell'ipotesi di una fusione tra Banco Popolare e, o meglio, Banco Popolare che acquista la Pop Milano, il banco dovrebbe riconoscere, se ho ben capito, un premio alla Popolare di Milano perché la qualità degli attivi della BPM è migliore. Esatto. Per cui è il motivo per cui sale di più la Pop Milano al 4,5 del Banco Popolare all'1,5%. Invece va bene anche Unicredit, qui non c'entra il rischio delle popolari però. No, qui c'è un accordo che la banca starebbe per concludere a breve col Santander sull'asset management, che riguarda la controllata di Unicredit Pioneer. L'accordo è vicino, l'ha detto l'amministratore delegato di Unicredit Ghizzoni venerdì, l'ha ribadito anche oggi spiegando che coinvolgerebbe tutta Pioneer e quindi non rimarrebbe escluso niente come ipotizzavano alcuni analisti, un'operazione che per Unicredit è positiva non solo perché inserisce l'asset management in un contesto più grande, ma anche perché consentirebbe al gruppo di migliorare la propria solidità patrimoniale con un Common Equity Tier 1 in miglioramento di 20-25 punti base. Ancora invece sui titoli nulla a che fare con il mondo bancario, di negativo oggi c'è CNH, Case New Holland, meno 1,70%, però attenzione, sia Case New Holland che Mediolanum oggi hanno la valutazione, il dato di borsa dopo lo stacco della cedola, se non ho visto male. Sì, esattamente, cioè c'è stato uno stacco della cedola. E anche Prysmian. Sì. Prysmian però ha comunque guadagnato, sì, mentre sia CNH Industrial che Mediolanum hanno leggermente perso, ma la variazione negativa è imputabile soprattutto allo stacco della cedola, che per CNH pesa circa 0,2 euro ed è un po' la stessa percentuale, diciamo, che ha perso oggi, meno 1,68%. Allora, negativa anche Campari, meno 1,30%, Tod's meno 0,70%, Ferragamo meno 0,30%. Tra chi è andato bene, oltre ai titoli citati, A2A più 2,1%, Enel Green Power più 1,90%, Azimut pure, Luxottica più 1,80%, ST Microelectronics più 1,5%, Autogrill più 1% come Mediobanca, Edeni dove, che lo colla qua, più 0,95%, Enel più 0,80%, Saipem più 0,94%. In assoluto Bion più 13,22%, Sunshine Capital Investment più 12,16%, Fidia più 11,20%, Bioera più 10,70%. Abbiamo invece in negativo De'Longhi meno 5%, Prelios meno 4,70%, V-Ray Communication meno 4,70% e poi PRL meno 4%. Grazie a Guido Maurino, Radio Corriere Sole 24 Ore. Il traffico. Focus Economia. Allora, prima di arrivare all'Expo, adesso c'è una dichiarazione del commissario unico che dice: tengo le dita incrociate ma avremo tutti i padiglioni pronti il primo maggio e i cluster saranno tutti aperti, tutte nelle condizioni di essere aperti. C'è un tema diverso che riguarda comunque l'attrattività di un paese e mi riferisco alla situazione che si sta registrando in Sicilia grazie, diciamo, ai viadotti dell'ANAS. Mettiamola così, non ho più voglia di mediare sull'ANAS, basta. Tra l'altro questo avviene nel momento in cui si è chiusa nel fine settimana il Salone Trasporti della Logistica a Verona, il Transpotec 2015, 100.000 imprese, 350-400.000 lavoratori coinvolti nel mondo del trasporto merci, di cui ci occupiamo anche troppo poco, spesso ci scrivono gli autotrasportatori, che vengono particolarmente penalizzati anche da quello che è successo in Sicilia. Allora, ringrazio per averci aggiunto in collegamento il segretario generale di UNATRAS, l'Unione Nazionale dell'Associazione del Trasporto, Autotrasporto Merci, Pasquale Russo, e che è anche aderente a Conftrasporto. Buonasera Russo. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Conftrasporto riunisce anche 130 associazioni italiane attive nel trasporto. Poi arriveremo anche a quello che è emerso sul settore, che beneficia di un, dovrebbe beneficiare di una benzina un po' meno cara, ma sappiamo che il trasferimento è difficile. Però mi dica intanto le difficoltà che i vostri associati vi segnalano dalla Sicilia dopo l'interruzione della A19 Palermo-Catania, è crollato il pilone, e quanto aumentano i rincari delle merci che trasportate? Guardi, le difficoltà, come puoi immaginare, sono enormi, e mi permetta di dire, non sono da paese civile. Sono d'accordo. Perché immaginare che in una zona del nostro paese dove l'infrastrutturazione è già abbastanza deficitaria, immaginare che cade un ponte nel 2015 e che non ci siano alternative o che non si provveda ad immaginare che ci possano essere alternative è veramente da paese del terzo mondo. La situazione è la seguente: noi non siamo più in condizione di fatto di raggiungere Palermo da Catania e non siamo più in grado di raggiungere Catania da Palermo, perché quella è un'arteria fondamentale, sostanzialmente l'unica vera arteria di collegamento. Le alternative autostradali oggi disponibili per fare il tragitto Palermo-Catania sono o quella di andare su Messina e poi da Messina con l'autostrada raggiungere Palermo, ma significa mediamente dover aumentare la percorrenza autostradale di anche 150, e se si parte ancora più sud da Catania si arriva anche a 200-250 chilometri, con costi che sono insostenibili, perché significa dover immaginare di percorrere, di fare una percorrenza oraria maggiore di quella rispetto alla Catania-Palermo di 4 ore, significa dover aggiungere i costi del pedaggio autostradale, che sulla Catania-Palermo non ci sono, e che sono altri 50 euro, ma significa soprattutto non riuscire a rispettare le normative europee sui tempi di guida e di riposo. Certo. Se i nostri ascoltatori, chi non lo dovesse sapere, noi siamo i nostri conducenti, i nostri dipendenti che guidano i camion, sono vincolati da un orario previsto dal regolamento comunitario, che ci dice che ogni 4 ore e mezza noi dobbiamo fare una pausa e che non possiamo superare le 9 ore di guida nell'ambito della giornata. Allora, significa non arrivare più. Allora resti con noi, perché adesso ho il GR, la pubblicità, e quindi un rincaro fino al 30% per le alternative che ricordavo, o via Messina pagando il pedaggio, la statale sud con un percorso che si allunga di 3 ore, e poi la parte dei tir che si imbarcavano sul Genova-Palermo, adesso non si possono più imbarcare sul Genova-Palermo e faranno la costa tirrenica con il rischio di bloccare la Napoli-Catania. Insomma, sono d'accordo, non da paese moderno, visto che poi parleremo anche dell'Expo. Resti con noi, GR24. Sono le 18. GR24, il sole 24 ore. Giovedì, vertice straordinario dell'Unione Europea sull'immigrazione, per la Procura di Catania il numero dei dispersi è ancora tutto da verificare. I sindacati rompono le trattative con la Whirlpool e proclamano 12 ore di sciopero. Il ministero convoca un tavolo per il prossimo lunedì. Grecia senza soldi, lo Stato chiede di trasferire alla banca centrale le risorse degli enti locali. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Enrico Pagliarini. Sulle recenti notizie che riguardano l'immigrazione interviene anche il segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon. L'Italia e la Grecia, dice Ban Ki-moon, stanno sopportando una pressione troppo elevata per l'emergenza immigrati. Auspico che l'Europa mostri solidarietà a questi paesi. Intanto, per discutere di questo, il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, ha annunciato che giovedì si terrà a Bruxelles un vertice straordinario. La situazione in the Mediterranean è drammatica. It cannot continue like this. La situazione nel Mediterraneo è drammatica e non può continuare così, ha detto Tusk nell'annunciare la convocazione. Intanto il portavoce della più potente municipalità libica, quella di Misurata, in una dichiarazione raccolta dall'ANSA, ha sostenuto che per lottare seriamente contro l'immigrazione clandestina c'è bisogno che l'Italia tratti in maniera diretta con il governo di Tripoli. Sempre parlando con l'ANSA, Ramadan Maiteng, del portavoce di questa municipalità, ha detto anche, ha aggiunto che è difficile controllare l'immigrazione clandestina nelle circostanze instabili dei paesi del sud del Mediterraneo. L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni ha reso noto che 3 imbarcazioni si troverebbero fianco a fianco nel Mediterraneo e che una di queste ha lanciato una richiesta di aiuto, riferendo anche della morte di una ventina di persone. A bordo di ciascun gommone potrebbero esserci circa 100 persone, ma l'informazione non ha ancora trovato conferma. Nessuna novità invece rispetto al naufragio di sabato e domenica davanti alle coste libiche, 24 i corpi recuperati, 28 i superstiti, nessuna certezza sul numero dei dispersi, come ha spiegato il procuratore di Catania Giovanni Salvi. I migranti sarebbero stati stipati all'interno di questo peschereccio di una dimensione non piccola, almeno 23 metri, che avrebbe, secondo quello che ha riferito il migrante, 3 livelli. Secondo quindi quello che viene riferito dal testimone, i migranti sarebbero stati, come abbiamo scritto nel comunicato di ieri, 950. Ma noi riteniamo che questa cifra debba essere presa con estrema cautela, perché sono cifre che vengono da una persona che non ha fatto una verifica. Il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministro dello Sviluppo Economico Federica Guidi ha convocato il tavolo sull'avvertenza Whirlpool per lunedì 27 aprile dopo la rottura delle trattative tra l'azienda e i sindacati avvenuta oggi. Whirlpool ribadisce la solidità e la validità del piano industriale, mentre i sindacati invece hanno proclamato 12 ore di sciopero. Secondo l'agenzia Bloomberg, il governo greco ha obbligato gli enti locali a trasferire alla banca centrale tutte le disponibilità di contante. La notizia è stata diffusa dall'agenzia nel corso del pomeriggio. Adesso la politica italiana, ci colleghiamo con Montecitorio, a Roma Elisabetta Fiorito, per fare il punto sulla situazione, sul dibattito relativo alla legge elettorale. Elisabetta, buonasera. Sì, buonasera. Lo strappo sull'Italicum si acuisce in Commissione Affari Costituzionali della Camera. Alle 20.30 è fissata la riunione della Presidenza di Commissione, che sostituirà di fatto i deputati dissidenti democratici come Da Torre, Cuperlo, Bersani e Bindi. Attacca Stefano Fassina, che giudica un fatto grave sostituire i componenti della minoranza. Il Premier Matteo Renzi, per Fassina, riconosce le correzioni necessarie affinché il pacchetto Italicum riforma del Senato non porti ad un presidenzialismo di fatto senza contrappesi, che condurrebbe ad una regressione della qualità della democrazia. Stamattina il termine di presentazione degli emendamenti alla legge elettorale 135, 11 della minoranza PD, 40 non ammessi, in campo ne rimangono 95. La battaglia quindi, se dovessero essere sostituiti i deputati della minoranza, si sposta in aula. Il Movimento 5 Stelle però minaccia di lasciare la commissione se verranno espulsi i parlamentari Dem dalla commissione. Insomma, tutto è rimandato alle 20.30 di questa sera. A te, Enrico. Bene, quindi questa sera capiremo cosa succederà. Chiudiamo con il calcio per la Juventus, che mercoledì affronta in trasferta i francesi del Monaco. Nel ritorno dei quarti di Champions scatta l'allarme Vidal. Il centrocampista cileno non ha preso parte alla seduta tattica del pomeriggio per colpa di una tonsillite acuta, stesso problema che a gennaio lo aveva costretto ad un ricovero d'urgenza in ospedale. La sua presenza contro i transalpini è quindi a rischio. È tutto per questa edizione, le 18, 5 minuti, 35 secondi, la prossima alle 19. Focus Economia. Parte di Focus Economia. Dicevamo, si apre oggi a New York il nono round dei negoziati tra Unione Europea e Stati Uniti sull'accordo del libero scambio, il TTIP o TTIP come dicono alcuni, Transatlantic Trade and Investment Partnership. Andranno avanti fino al 24, non ci si aspetta il 24 aprile una svolta, ma un passo in avanti verso l'accordo. Sabato ci sono state manifestazioni contro questo accordo in 704 città del mondo. La critica è che la scarsa trasparenza sui negoziati possa nascondere normative a favore delle aziende piuttosto che dei consumatori, e con timori su agricoltura e piccole e medie imprese. In realtà l'obiettivo è arrivare a una zona di libero scambio tra Stati Uniti e Europa per semplificare le normative tra le due aree e eliminare tutti gli scambi bilaterali di merci. Coinvolgerebbe anche servizi e appalti pubblici. Professor Giorgio Barba Navaretti, che insegna economia internazionale alla Statale di Milano, editorialista del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Per noi è molto importante, anche perché l'Italia cercherà di arrivare anche a una normativa che porti al riconoscimento delle nostre DOP o IGP e quant'altro. Mi dice sostanzialmente perché dal punto di vista europeo questo accordo è così importante, ma anche perché in realtà c'è chi ritiene che questo potrebbe avvantaggiare non i consumatori ma le aziende. Prego. Ma per due motivi è importante. Il primo è perché per le imprese europee esportare in America, dovendosi ad adattare a standard diversi per quei mercati, da un punto di vista sanitario, da un punto di vista della sicurezza, da un punto di vista tecnologico, è un costo che tra l'altro ricade soprattutto sulle piccole imprese. Quindi è vero che questo riduce i costi di esportare per le aziende americane in Europa, ma anche moltissimo per le aziende europee in America, visto che l'America è il nostro forse principale mercato di esportazione al di là dell'Europa. Questo è un passaggio fondamentale. La seconda ragione è una ragione più globale e strategica, nel senso che comunque se l'Europa, gli Stati Uniti e l'America, diciamo, non fanno un accordo di libero scambio, comunque lo fanno altre aree. Gli americani lo fanno per esempio con i diversi paesi asiatici, e quindi questo riorienta i flussi di commercio verso altre aree lontane dall'Europa. Se vogliamo continuare a partecipare agli scambi globali, dobbiamo fare questo accordo con gli Stati Uniti. Allora, Mario Platero, che è in collegamento con noi da New York. Buonasera Mario. La posizione americana, abbiamo pochi minuti, e soprattutto c'è speranza che l'Italia in questa trattativa veda riconosciuta, insomma, la tutela dei propri marchi? Mi riferisco soprattutto all'agroalimentare, sapendo che in America come in Canada, negli Stati Uniti come in Canada, miliardi e miliardi di finto made in Italy, Italian sounding, vengono venduti ogni anno, complessivamente valgono il doppio di tutte le nostre esportazioni nell'agroalimentare. Oppure ci illudiamo che l'industria alimentare americana possa accettare l'idea della DOP, per cui tu non puoi chiamare in un altro modo un prodotto se non è prodotto, diciamo, nell'area in cui esiste la denominazione di origine? Ma dunque, su questo punto gli americani, devo dirti, tengono duro, ma non per una questione di come dire, insulto al marchio, ma perché, come mi diceva proprio Michael Froman, che è il capo negoziatore commerciale qualche tempo fa, loro non possono impedire, per esempio, a una famiglia come italo-americano di chiamare un prodotto con il loro cognome, diventa Italian sounding. Però cosa fai? Fino a che punto metti un limite? Allora, la questione credo che sia di trovare, e credo che ci stiamo muovendo in questa direzione, di trovare un giusto punto di compromesso, perché se tu ci pensi, anche noi in Italia usiamo una gran quantità di nomi che sound English, no? con un suono inglese. Anche nella moda. Allora cosa facciamo? Certo. Anche nella moda e così via. Allora cosa facciamo? Li blocchiamo tutti? Quindi si tratta, secondo me, su quel punto di essere ragionevoli da ambo le parti e di trovare poi una formula di compromesso che possa funzionare. E per il resto, sul piano delle news, la cosa più importante per sbloccare il negoziato è che l'America riesca ad approvare, o meglio il Congresso americano, il cosiddetto TAP, cioè l'autorità che viene concessa al presidente americano di negoziare per conto il anche mandato, del Congresso. Certo. È un mandato che consente di negoziare anche proprio di modo che poi il Congresso o approva il trattato in blocco oppure lo respinge. E nella storia, per esempio per il NAFTA, per altri accordi di questo genere, anche bilaterali, non è mai successo che ci fosse un accordo senza il cosiddetto TAP. Ecco, speriamo che lo passino, perché questo porterà le cose in avanti. Punti ancora fermi sui servizi finanziari, per esempio, che sono esclusi per il momento dal negoziato, ma concordo, voglio dirti una cosa però, concordo con Barbara Navaretti, questo accordo è fondamentale, è importante per tutti, per i consumatori, per l'economia, per i piccoli produttori, perché sono più i vantaggi che gli svantaggi. So che sabato c'è stata una manifestazione di protesta, mi è capitato di vedere dei dibattiti, di partecipare in dei dibattiti dove ci sono una gran quantità di persone che dicono che non si deve fare, che mettono paura in giro dicendo che ci sono i prodotti con modifiche genetiche che vengono importati, che ci porteranno malattie, eccetera. Non è vero. Per cui, che sia chiaro, sono queste manifestazioni da parte di gruppi, gruppuscoli, gruppetti, che per ragioni, non so, se politiche, ideologiche o di sindacati, cercano di bloccare. Su questo poi faremo anche una puntata sugli OGM, perché chi vi parla è a favore della sperimentazione sugli OGM, quindi casca male chi pensa che sia meglio tenersi tutta la chimica che mettiamo nel nostro ortofrutta per non sperimentare qualcosa di nuovo sugli OGM. Detto questo, Barbara Navaretti, ho 30 secondi, secondo lei, almeno in questo nono round, si andrà avanti o no? Faccio una previsione. Io credo che si farà qualche passo avanti, perché questo accordo è inevitabile, e speriamo davvero, come diceva Platero, che si possano superare delle posizioni che a volte sono ideologiche per trovare un compromesso ragionevole. Penso che si andrà avanti e me lo auguro veramente. Secondo me la linea migliore, comunque, per far capire a tutti, è quella che lei spiegava prima, cioè se non lo facciamo noi Europa Stati Uniti, vanno avanti gli altri paesi a fare accordi di libero scambio, con un danno comunque anche per i nostri produttori, che non vuol dire che si debba fare a ogni costo, si farà cercando di tutelare al massimo gli interessi europei. Sull'OGM non torno, faremo una puntata su questo in vista dell'Expo, proprio su, perché sarà uno degli oggetti anche, se si possa ancora fare innovazione, ricerca scientifica nel mondo dell'agricoltura oppure no, e ci teniamo i pesticidi con grande vantaggio dell'industria chimica tedesca, per cui vediamo. Intanto ringrazio sia Barbara Navaretti che Mario Platero, vi do appuntamento a domani con un'altra puntata di Focus Economia dalle 17 in poi. Intanto un augurio di buona serata da Sebastiano Barisoni. Radio 24, la passione si sente.